Prova. Prova, fischia. Non fischia. Non fischia niente, quindi possiamo anche sentirla. Eh? Sta a capire, almeno se sentiamo in diretta, no? Come ieri che stavamo in delay. Io delay. Ecco, così fischi, perché sei un maledetto pezzo de merda, quindi facciamo così. E non fischia, perché non doveva fischiare, maledetto pezzino di merda. Eccoci qua di nuovo in voce, la Radio Pirata 38, ci risiamo in diretta dal Sesto Ponte, ci siamo. Iniziamo un po' con calma, per fortuna c'è Aphex Twin e non le vostre terribili richieste. Iniziamo con calma. Allora, questo è chiaramente il mio album preferito, secondo me sì. Non lo so, comunque ci siamo quasi, è quasi il mio preferito. Abbraccione a Via Guareschi che ci sta ascoltando e che ci manda tante richieste, ne esaudiremo sicuramente una. In coda abbiamo ancora quelle di ieri, quindi avremo un'ora buona di musica già organizzata da tutte e tutti voi. We'll be right back. Allora state ascoltando Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte del Laurentino 38, 351-0913-390, lo ripetiamo, è il contatto telefonico e adesso vi spiegheremo anche il proposito. 351-0913-390 è il contatto telefonico per scriverci, inviarci SMS, WhatsApp. Prevalentemente nella giornata di ieri, in cui abbiamo inaugurato la riapertura della radio, sono state le selezioni musicali e i saluti affettuosi che ci sono arrivati da Amsterdam, da Barcellona, da Ariano Irpino, da Ostia, da Salerno, da Monza addirittura, cioè sono stati cordiali addirittura da Monza, e sono stati saluti affettuosi e richieste musicali a cui sicuramente risponderemo in questa serata. Il proposito qui dal Sesto Ponte è creare questo appuntamento quotidiano, un po' per fare da raccordo nel quartiere, anche sentire quali sono le problematiche, stiamo raccogliendo anche le perplessità rispetto alla musica sparata in balcone e via dicendo. Abbiamo anche moderato i toni e non so, penso che anche le pareti di questo quartiere lo sanno chiaro e tondo che rispettiamo chiunque, anche chi non conosciamo. Figuriamoci in questo momento di dolore. Il proposito non è solo fare intrattenimento e divertirci, è proprio provare a capirci in quartiere. Dunque, da ieri sono arrivate le prime richieste di PC in disuso per permettere a studenti del quartiere di seguire le lezioni online. Qui dal Sesto Ponte abbiamo riattivato, diciamo, un minimo di biblioteca di strada. Sono già disponibili i primi libri proprio qui alle panchine in cortile, ma stiamo riattivando il vecchio progetto di biblioteca che era stato trasferito in quel del Quarto Ponte al Chilombo 38, la biblioteca che era stata occupata durante un carnevale di quartiere. Biblioteca che è stata sgomberata non di recente, ma causando un ammasso di libri qui da noi che l'abbiamo messa in salvo. Ecco, stiamo provando a ripristinare il tutto mentre proviamo a rendere anche questi vasconi di cemento non solo belli ma anche utili. Stiamo rimettendo in piedi un orto. Sicuramente presto rivedremo i frutti. Uno spazio radiofonico, insomma, per dirci proposte, idee, non solo le nostre, scriveteci. E tra l'altro affronteremo diversi temi complicati, come fare la permanente alle proprie nonne, forse l'operazione più difficile che una parrucchiera, un parrucchiere può attuare dentro casa, quindi faremo dei brevi corsi via radio, così come daremo indicazioni ai diversi raccattapalle dei piani inferiori che dovranno aiutare le partite che stanno avvenendo sui tetti di diversi palazzi. Vi vediamo che giocate a tennis, basket, pallacanestro e calcio su diversi terrazzi, e ci sono diversi collaboratori dai piani inferiori che potrebbero essere coordinati attraverso questa radio. Così come le numerose proposte inusuali e di pratiche che potremo inventarci direttamente da questa radio, che proveremo a introdurvi in questi programmi serali. Restate all'ascolto. 351, ma perché dovete restare all'ascolto? 351-0913-390, contattateci. Musica. I don't wanna be alone in the darkness. I don't wanna be alone in the darkness anymore. Here I am alone again, can't get out of this. hole I'm in. It's like the walls are closing in. You can't help me, no one can. I can feel these curtains closing. I go to open them, but something pulls them closed again. Darkness, feels like I'm loathing in Las Vegas. Haven't got the Vegas, why I'm so lost. But I'd make you this small wager. If I bet you I'll be in tomorrow's paper, who would the odds favor? I'm so much like my father, you would think that I knew him. I keep pacing this room, Valium, then chase it with booze. One little taste, it'll do. Maybe I'll take it and snooze, then tear up the stage in a few. Fuck the Colt 45, I'ma need something stronger. If I pop any caps, it better be off of vodka. Round after round after round, I'm getting loaded. That's a lot of shots, huh? And I don't wanna be alone in the darkness, yeah. I don't wanna be alone in the darkness. I don't wanna be alone in the darkness anymore. Now I'm staring at the room service menu off of Benzo. I can hear the music continue to crescendo. I can see the whole fucking venue from my window. That's when you know you're schizo. Cause I keep peeking out the curtain from the hotel. The music is so loud, but it's almost as though I don't hear no sound. I should get ready for the show now. Wait, is this the whole crowd? I thought the shit was sold out. But it's only the opening act. It's early, don't overreact. There's something told me relax and just hope for the show to be packed. Don't wanna hit the stage before they fill each row to the max, cause that'd be totally whacked. You can't murder a show nobody's at. But what if nobody shows? Panic mode, bout to snap and go motherfucking wacko at any second. About to cancel the show just as fans below rush the entrance. Plan is to go direct shit, cameras in all directions. The press is about to go ape shit, bananas on all the networks. Commando with extra clips, I got ammo for all the hecklers. I'm armed to the teeth. Another volume, fall off the bed, hit the ground and crawl to the dresser. Alcohol on my breath as I reach for the scope. I'm blacking out, I'm all out of meds with them benzodiazepines. Gone now, it's just magazines sprawled out on the floor. Fuck the media, I'm going all out, this is war. Darkness, my friend. I don't wanna be alone in the darkness, yeah. I don't wanna be alone. Abbiamo i saluti dall'Alessandrino, un abbraccione forte, dai a Marchetto. Time to start the show up. It's 10:05 p.m. and the curtain starts to go up. And I'm already sweating, but I'm locked and loaded for rapid fire spitting. For all the concert goers, scopes for sniper vision. Surprise from out of nowhere as I slide the clip in from inside the hotel, leaning out the window. Going Kaiser Sosa, finger on the trigger. But I'm a licensed owner with no prior convictions. So loss of sky's the limit, so my supply's infinite. Strapped like I'm a soldier, got them hopping over walls and climbing fences. Some of them John Travolta, staying alive by inches. Cops are knocking, oh fuck, thought I blocked the entrance. Guess your time is over. No suicide note, just a note for target distance. But if you'd like to know the reason why I did this, you'll never find a motive. Truth is, I have no idea. I am just as stumped, no signs of mental illness, just trying to show you the reason why we're so fucked. Cause by the time it's over, we'll make the slightest difference. I don't wanna be alone in the darkness. I don't wanna be alone in the darkness. I don't wanna be alone in the darkness anymore. Yeah, we do have some breaking news from the Associated Press right now. Just gonna bring that up because we're hearing, we have told you that the shooter is dead, and we have just learned that police are saying that the Las Vegas shooter killed himself. That is the bartender there at Mandalay Bay, and I believe we are going to hear more from her. Yeah, we just wanted to share that with you. You can see behind me here. This is what it looks like. Now, allora si continua con le splendide selezioni musicali da voi proposte. E il venerdì è un giorno difficile di questa settimana, ancora di più. Siamo con voi, regà. We'll be right back. myself with a fair laugh. This is the storm dead, never stand I open into anyone else. Don't tell me your wife is after the line, trying to make me up a fuse about the USA. When the fact in my mind, this is the storm here to comprehend, I overstand a single word. I say, mother, whatever, go get tired. And I still don't like it, and I know I don't want it. Almighty watching, I again. And I still don't like it, and I know I don't want it. I again. Siamo Radio Pirata 38, qui in diretta dal sesto ponte del Laurentino 38. Un abbraccione a chi ci scrive da Via Guareschi. Ormai è nel nostro cuore, a prescindere. E da Potenza e da Salerno c'è forse un affetto particolare che ci arriva da diversi ascoltatori. E poi c'è l'Alessandrino. E poi chi altro? Collatino. Dal Collatino, Montesacro, Torre Maura. Niente, l'abbiamo detti tutti, regà. Basta. Siamo ovunque. E proseguiamo con la musica scelta da voi, cioè, noi non ci prendiamo, anzi ce le prendiamo tutte le responsabilità, nonostante la vostra musica. 351-091-3390 è il numero di telefono che state utilizzando da più parti, davvero sconfinate. E sicuramente un salutone si aggiunge a Torpignattara, che giunge calorosa con richieste non male, non male. 351-091-3390, Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte del Laurentino 38. Abbiamo iniziato ieri dopo diversa caciara fatta in balcone per tre giorni insieme a chi abita da questo lato del ponte. È un momento difficile, non si sorvola assolutamente sui problemi che stiamo vivendo sia in quartiere che altrove. Ieri abbiamo parlato un po' più del senso di questa radio. Ci prenderemo il tempo anche questa sera. Continuiamo con la musica che proponete voi, così almeno vi teniamo compagnia. Dai, un'ora insieme. Intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, disordine è una forma d'arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Forza Monza, i buoni gusti! Che succede? Oh Gesù, per favore andiamo avanti. C'è un problema scusate, ovvio che ha riguardato questa selezione. Che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo! Bugo! Oh Gesù! Vado a vedere dove è Bugo, per forza, perché... Lasciamoli litigare, regà, porco mio. Ti giuro che non è preparata. Siamo pronti per... vediamo un po', mi hanno detto, corri, vai, e sta succedendo qualcosa! Vediamo. Questo festival è bellissimo, qualsiasi cosa sia, io non lo so. Ti sei sentito male? No. Che è successo? Credo che l'esibizione non si può fare, Bugo se n'è andato e quindi ovviamente mi dispiace ma l'esibizione non si può fare, quindi viene considerata per la stampa una non esibizione, poi cercheremo di capire che cosa realmente è accaduto. Grazie Monza, un salutone. Credere a chi dice di no, perché c'è traffica le anime, ti racconta di tabacco e caffè. C'è una voce chiara d'Argentina che fu fuoco e medicina, come adesso è amore e rabbia per me. C'è tra le nuvole di un sigaro la voce di uno zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato che per sempre quella voce cercò. E che dicevo? Venceremos, adelante, con vittoria o muerte. Venceremos, adelante, con vittoria o muerte. C'è, se vai ben oltre l'apparenza, a un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda, che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guido. E che diceva? E 34 minuti primi, non so da dove ci ascoltate, però questo è l'orario al Sesto Ponte. E come dire, intanto un abbraccione a chi ha scelto la musica che abbiamo ascoltato poco fa. E alcune canzoni sono state selezionate con delle dediche dirette a noi che non saremo qui a dirvi, quindi come dire, comunque c'è gusto, c'è gusto. Poteva andare peggio, poteva andare peggio. E dunque si ringrazia Garbatella, Amsterdam, Amsterdam Nord e Garbatella di nuovo e Torpignattara, Alessandrino e soprattutto il Laurentino, perché faceva rima, dai, ciao. Hon var den starkaste och svagaste på en och samma gång. Ännu en dag hon väljer att blunda. Instängd i ett mörker. Hur bryter man när hjärtat vägrar lyssna? Solen skiner och fåglarna kvittrar. men det kvittar. För kylan, den återstår. Una lunga intro. Good morning, darling. I see you falling. In and out of love, is it because you're cold and heartless? Or is it all withdrawals? Forgotten how to be your partner? That final scene in Casablanca, I guess the heart is like a time bomb. No white horse for you to ride on. Bygones, be bygones. My God, you're beautiful. If it was two of you, probably break the first one's heart in two. But second time the charm, I had a dream. You lock your father's arm and mosey down the hallway. I know you probably had a wild day, so you should make your way to my place, and we can talk about the things you want to talk about. You know, not the first, like the cold day. Messo un po', ma anche l'ambulance arriva. Ciao, salutone al collatino che con questa canzone farà squagliare il quartiere. Abbiamo quasi completato questa oretta di richieste musicali. Qui ci stiamo dando da fare nel migliore dei modi per comunicare con voi. Tanti saluti. Insomma, è una seconda giornata di diretta dal Sesto Ponte. Vediamo come prende forma un po' questo strumento radio. Vediamo se ci può servire anche un po' fuori da quello che sta succedendo semplicemente nelle nostre case, provandone a parlare insieme. Brucia, a te ne brucia, in notte rossiccia. che Castel di Leva spacca. Quest'oggi stiamo cercando di accontentare al meglio le richieste musicali. Da domani vi attacchiamo un'ora di pippone senza musica, quindi sfogatevi oggi, non mollate. Mancano 10 minuti e abbiamo 18.000 prenotazioni. Penso continueremo per tutta la notte se ci siete voi. 351 09 13 390, numero di telefono. In quarantena con Laurentino 38. We'll be right back. intanto Ostia per averci richiesto questa fantastica traccia che abbiamo apprezzato tantissimo anche qua da Laurentino. E adesso c'è una dedica per quanto riguarda tutti i bambini e le bambine delle periferie del mondo. La dedica ci arriva da Spinaceto e adesso vi mandiamo la dedica. Buon ascolto. C'è chi ha pensato solo per un attimo a poter passare la quarantena qui a Laurentotto e gli sono venuti i brividi. Cioè, capiamo che ci siano dei disagi, ma in realtà ce la passiamo molto bene. Thank you. 20.02 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Pirata 38. Questa sera abbiamo dato largo spazio a gusti musicali e dediche inaspettate. Alcune sono irripetibili, altri sono articoli di giornale. Quest'oggi non abbiamo nessuna intenzione di leggere i vostri pipponi. Ci dedichiamo un po' di musica. Domani e domenica saranno giornate pesanti per voi tutti. Avrete un'ora di radio da affrontare con noi, di solo parlato. Quindi organizzatevi, ascoltate musica nei momenti precedenti. Per ora 351-0913-390 ancora per fare richieste, perché non siamo in grado di smettere. We had to sterilize, we had to sterilize, we had to sterilize, we had to sterilize. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. Thank you.

the end of the video. Nasheed just, she don't talk. She's so sexy, she ain't gotta talk. That's it. Kick drum, Felix the House Cat, he was king, Nasheed Friday Jujuma. Peace. Ella nació entera como el sol, pero ocurrió que el mundo le nubló la voz y amarrada a una falsa belleza fue su condena, ser esclava de su propia existencia. Un historial de agravio y moratón le devolvió violeta el corazón, se hartó de vivir en mundos de muñecas, rota la voz de gritar su dolor a la estrella. ¿Pa' qué pedís permiso? Pedíselo a vos trojo varios, de no tiras con vosotras del carro no vamos a ningún lado. Vuestro puño en la mesa es necesario como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla estaré en el bando de las brujas. Quiero pensar, me vas a disculpar, que en realidad tan bueno no será. Tu Dios con testículos entre las piernas, si le molesta admitir que solo ella es su dueña. Princesa no, guerrera, por favor. E allora qui dal sesto ponte del Laurentino 38 con questa improvvisazione perpetua che sta riguardando le nostre giornate in balcone, e abbiamo attivato da due giorni Radio Pirata 38, ci siamo, ma quest'oggi stiamo tentando di piano piano concludere questa diretta. Le proposte musicali, le ultime, sono ovviamente le nostre, solo nostre, dedicate a voi tutti, e poi ci risentiamo domani. Non ci sopporterete, vi accompagneremo nel non sopportarci, non lo facciamo neanche tra di noi, non c'è questa tolleranza. 351-09-3390. Your dream will get you a Porsche. Who says that life is not there? Who said?